Se aspetto che si possa bruciare senza autorizzazione, dopo me la brucio. Tanto una sera bruciamo tutto quanto quello che c'è. Sì, bisogna puntare nella briga dove la sede chiede. Ma poi faccio la domanda, faccio questo, faccio quello, ammazzatevi. A me hanno fatto sempre visite. E io mi facevo sempre autorizzazioni con gli anni scorsi. Invece l'anno scorso sono andato, cioè, ci potevo bruciare, perché l'avevo sentito che ci poteva bruciare, però mi sono ci vado direttamente da loro e personalmente, siccome c'è una persona che conosco e mi ha detto sì, dice può bruciare senza autorizzazione. Allora sono sceso con Luca l'anno scorso e mi sono tutto bruciato, in un paio d'ore abbiamo bruciato tutto, ogni avvagarole che ti dico niente, di venire a me, che ci hanno fino a doppio. Adesso l'altro mese mi sembra che si può bruciare, a metà dell'altro mese. A fine questo mese, all'inizio di ottobre sarà, aspetto, non ne ho fretta, capito? No, ne ho fretta, meglio essere tranquillo, Bacchi, capito? Ma che cazzo che ce lo fa fare? Ti dirai, se è poco è un altro discorso, però quando fino un bene, no? Non bisogna fare, no. Poi facciamo tanto visuale di Virginia, cazzo, che cazzo ne sai, dici? Fa passione ora, ragazza, fa i figuri di sì, capisci? Nello livello che diciamo così, vicino alla strada di Santo Zettaro, non posso andare a bruciare perché si vedono passando la strada. Poi lì ne ho un casino di polloni da bruciare, ne viene poco di polloni da sbagliato. Un cambio venne, e dunque quell'aspetto che quando si può bruciare a poco la brucio, quando si può bruciare, tanto fastidio non me ne dà, anzi secca di più e attende prima. Magari forse perché tu magari ci scendi tutti i giorni, magari fai così a poco, no? Ma io ci scendo così, prima ci avevo frequenza, ma adesso no. Penso quando scendo o a tagliare o quando posso bruciare brucio, capito? Se non hai il movimento là, non ti faccio un botto, la voglio passare a mezzo a razzi, ma manna vai il volume. E per la faccio una tettoia, non mi faccio un carrello, tutta la trice, quindi. Allora, sopra ho detto, la mendola e la foglia che si piazza, passa tu ragazzi, io sa pure che voglio tagliare, e dice manna ragazzi, già faccio l'attrezzo lungo, io mi tagliare, pezzo a pezzo la ribusto, me la tagliamo, e mi brucio pure questo. Bisogna fare pulizia, brucia. Bisogna bruciare. Io non attendo verso l'ombra, così pensa che sia un arrosto, capito? I limoni li abbiamo già tagliati, li abbiamo già tutti buttati, li abbiamo abbassati, anche per non vedere ratti lunghi, e poi si muoveva sempre la butta con questo limone. La giusta alta abbassata e andava in bene. È sotto buro, guarda, ma prima mi toccava in cina a casa, poi va tranquillo, basso sotto, va qui, e non mi trocco la china con un motto quel più fattore, capito? Poi non c'è la danza, non c'è l'altra giù fatto, capito? C'è la danza è di 4 anni passato, i limoni mi hanno avanzato, i 4 anni di limone, la giù con una giù saccando, mi mancava da più tutto. Infatti la canna è uscita, un bel di legna secca pure va via, e ancora i laranzi mi vengono bene la legna secca, però cazzo, insomma, un bel di alberi che a falle vivo sempre giù, però ogni tanto cacchi rami hanno lo zaglio e per cui piano piano, questo me lo posso io piano piano, per carità. E infatti come ti hai detto tu, è sempre che fa, non manca mai, non manca mai. Più ne va e più ne è, più ne va e più ne è. Allora, una volta che sei, sigillare la decisione di conto, a me non mi piace avere la brutta e tutta malandata, no, la buona pazienza è più perfetta. E ho pensato in mia volta, piano piano si va, se non puoi passare la volta, no, un po' con la dita, no, piano poco, dai, c'è il cracco dei bossi, no, c'è il padrone, mi dice che fai il cracco, fatelo tu. E bisogna dirlo per farlo, oh, è che andiamo a casa, oh, io frutto una cisana, magari fa ogni tanto, io faccio fare lì, io voglio la chiesa, vai a raffiare gli agrumi, ma non si può bene niente, capito? Oh, io, è che andiamo a casa, appena chi fecca, magari assistere agli affari, faccio qualche cosa, ma ancora no, oh, io. Un tasto con tutto il dolore, cosa fai? Ma poi stai una chita a cappia che non puoi stare, capito? E tu non mi sono chiedendo di capirci di bene. E tu non sempre dolore, non ne basta uno e arrivi l'altro, è sempre la ruota. E cosa vuoi fare? Arrivi da una società e invece sta bene un tasto di bici. Non si può! Non si può, è occupato. E andare. Sono rientrato, Bene meno, insomma, bene scucciato, Meno male sei rientrato, perché Gio Maria è disperato. Sì, su Gio Maria, come mai? Ah, caspita. Dove eravamo disperati, non c'era Bacchisio, ma per noi e tu, per noi due, siamo tranquilli, dico la Bacchisio. E piede la battimanna va. Che cosa che ci vuole la battimanna, Ello, E vuoi poco due cose a Bacchi? Sono due Bacchi, tanto Bacchi a tanto zettaro, attendi, sciamma, nessuno risponde. Tutti muti, tutti a cuccia. Magari sono contenti, non vedi niente. Oppure mi sento un fruscio, lo giamme, nuda, e una sera uno frusciato, due russi. E non mi rifugio. Oggi hai detto non vai ringa, non vuoi la verità. Ma ieri sera c'eravamo dalle 7 fino alle 8 ieri sera. Se chiamavi, verami tutte e due, va a vederli. Si è sentito. Ma la sera sono andato da casa alle 7, e alle 7 sono andato da casa. A fine dobbiamo fare l'elettricista, ho fatto trovare in garage, dunque sono passato prima. E quando la sera ha chiamato, oh nuda, tutto tace. Pesca Marina, eravamo dalle 7 in trasmissione. Eia, infatti. E allora, due che non entrate, capito? Hai tu che il poltronato, sei troppo un poltrone diventato, capito? Sì, abrialo, so, prealo, capito? Andiamo, andiamo. Ah, signor Marchisio, andiamo bene. Ehi, so, andiamo bene, benissimo. Super bene. Signor Marino, non si è inteso più. Chissà se lo giuro cosa ha mangiato. Deve essere tu burro, si è traccato di sta. Non vedeva nessuno. Io sono una settimana che non entravo. Allora hai dormito in carriera e dormendo. No, c'era mia figlia e quindi qua era tutto occupato e non poteva entrare. Capito, e vabbè. Marino deve essere impegnato in campagna, deve fare travaglio in campagna, deve essere lavorando a pieno ritmo. Sicuramente così, andate. Ma chi deve essere? Se per il sottallarbo una zappa in mano, tiro fresco, però la zappa non muove mai, e deve essere zapparato malissimo. E oppure sono già una settimana che non l'ho sentito, l'ho sentito la settimana scorsa, che stava parlando con Giulio su 10, però è venuto qua prima e qua non c'era nessuno, io non ho potuto rispondere perché c'avevo gente, però dopo ho girato e l'ho sentito su 10 parlando di un Marino, ma con Giulio, però la settimana scorsa, questa settimana non l'ho sentito per niente. Forse come ti ho detto io, sotto quell'albero a destra salendo, che è un albero no, e rimane sempre, infatti tutte le volte che passo trovo sotto quell'albero una zappa in mano, però dritto, senza far niente. Però oggi, senz'altro, oggi è venerdì, ma ieri era a riposo e aveva lavorato, perché doveva dovevo tagliare il frangimento che c'è in casa, che io avevo fatto io. Deve essere stia facendo quel lavoro. Beh, è un lento, quindi fatto senz'altro, beh, è chiaro che se c'è da fare bisogna farlo. Non è che deve lasciare quello che c'è da fare per il baracchino, ci mancherebbe altro. Quando è possibile si entra, quando no, cerca a farsi il dovere che deve fare prima di tutto, che è molto più importante del baracchino. Infatti bisogna fare così, bisogna fare. Prima il lavoro, dopo il piacere. E invece Macchisio tutta la vita travaglia, tutta la vita in mannaga. La sera se non entra per forza è stanco e non entra. Andiamo, andiamo. Macchisio alle 7 in campagna, 7 in campagna, al fresco, capito? Così. Bene signori, è arrivata l'ora della merendero, per me l'ora X è arrivata. Macchisio vi saluta, vi auguro ancora buon QSO, grazie della compagnia, a sentirci domani se tutto va bene. Benissimo, ascolto il finalino e Macchisio vi saluta ancora, ciao ciao. Ciao signor Bacchi, ci sentiamo alle prossime, magari domani. Andate, si prenda signor Gio Maria. Ok, salutiamo il signor Bacchisi, allora. Ok, ha fatto piacere Bacchi, buon proseguimento in salata, saluto di casa. Ah, domani se coincide, dai. Buona cena, ciao. Ciao, ciao a tutti e due. Ciao Bacchi. Allora signor Gio Maria. Sai, si può andare, possiamo andare in giro. Prima sono andato alla Briccome, poi sono alla città mercato, da voi sono andato, da sto andando, da voi sono andato alla Bricco, quello di Pia Bugini, da voi sono andato a Ciappaluca, sono stato 5 minuti, da voi mi sono andato, non sono andato in giro, in casera no, in casa mi sono parato un'oretta lì al magazzino. Era un bel parente, chissà Ciappa che mantiene la molla della mantova, ma è presente, la molla che regoleggi, assai farà, chissà non va via. La via, l'originale, ma il parita, non so, con della giubbotta, ha giubilato, come sa, giubilato la secca della giubbotta, mi sono capitato, c'è di... Ah, ma cosa giù pronta se dovessi capitare di piazzarla, c'è la stampa precisa, va. Va benissimo. Insomma, ma sai un tempo, cosa fanno? Poi sta sempre sposati, no, che cazzo, vanno ieri, cazzo, ma fa la giocio. In Ciappuccio, anche se è poca roba, però mi pago, capito? Si possono sbattere, carriera, la buietta, d'orra, a sempre un birichino, stato per maniciolo con altre figlie, però la sento ma stessi, capito? Vabbè. Va benissimo, purtroppo, ogni tanto bisogna fare qualcosa. E per forza, come fanno a fare niente? No, che rispetto. Cazzo, cosa fa? Attacca la computer, però il computer buio, poi con una mezz'oretta va di mare luci, mi stracco di tutti, se la stessa in gazzera, come mi alzo alle 4, mi accendo il computer, magari una mezz'oretta così, baiteli, così, da voi ho messo la casa a Giorgio pure mi accendo il baracchino, il pastorezzo, e abbasso un tempo di scritto, cosa vuoi fare? Anche se non c'è nessuno, mi metto a pastorare, guardare, sentire se c'è qualcuno, che non fa mai nessuno, magari la sera sì, però romanzano, non te la dico per manco un'anima, tutto questo. La 27 è veramente molto a vivo, Ma che camionisti senti sul 25, 26 o 27? Come? I camionisti, neanche quelli senti. Ma non sempre, non ci sono sempre, non so. Ogni tanto li sento. Già passo anche perché faccio il senso. Ma non sempre ci sono, capito? Ogni tanto dovresti sentire quelli di che tornano da Cagliari, da Umbria e da Porto Torres. Io al sesto ogni tanto, capito? Ma al sesto non è molto spesso, non è prima, capito? Certe sere non li senti quasi. Qualcuno qui simbi magari fate la chiamata e non rispondere al manco, capito? Per dirti. Vabbè, già lo sappiamo, come qua stesso. Sono tutti morti, certo, sono tutti impegnati, come qualcuno che deve fare tutta la roba a casa e non ne ha voglia, però accendere il computer 3 ore già ce l'ha, però ognuno vede un po', fa quello che fare, li crede, capito? È giusto che sia anche così. Vabbè, se qua si può stare che attaccato al computer, noi siamo attaccati al coso, io ogni tanto che ho attaccato lui al computer, no, da lunedì faccio chi fa invece. E poi piano piano devo aggiustare il carrello anche. Da lunedì devo lavorare nelle scale, devo lavorare. Qualche volta. Certe volte scendo giù anche 2 o 3 volte. Qua e portami l'acqua, perché l'acqua la scarico in magazzino, quando mi serve scendo la porto su, capito? Mi serve questo, mi serve quell'altro, insomma come può essere una dispensa anche in magazzino, capito? E per cui mi la salgo a pezzo la cosa, certe volte 2 o 3 viaggi faccio lì e mi svago anche, capito? Già mi fa bene, tanto non posso stare almeno sempre seduto qua. Vabbè. Dai Giomari, sono le 8:05 e mezzociamenti. Ci sentiamo domani magari, se coincide. A tutto, ok, ciao Giomari. Ok, ciao. Buon provvedimento serata, saluto a casa, buona cena, a domani se coincide. Ciao. Ciao Giomari.